Dialogo ventesimo. Raccontò Giabir. L'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la ben gloria, disse: ci sono due cose che senza dubbio si avvereranno. Uno dei presenti gli chiese: o apostolo di Allah, quali sono? Rispose: l'andata all'inferno di chi avrà fatto associazioni politeistiche ad Allah e l'andata in paradiso di chi ad Allah non avrà associato nulla.